בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Amici di Blue Time, amici di Blue Radio Veneto, buonasera a tutti, io sono Flavio Bilato, insieme a me c'è Maurizio Calzavara, oggi è martedì 2 gennaio del 2012 e il sole è già andato giù. È una novità, Maurizio? Sì. Assolutamente sì, ma non è una novità, anzi una cosa che nel tempo si è fatta conoscere sempre di più, quella dei nostri appuntamenti live con Blue Time Live e quindi anche questa sera. È tempo di musica dal vivo, è tempo in questo caso di musica per piano e per voce, quindi amanti della chanson réaliste, amanti del ragtime, amanti del pianoforte e della bella voce, siate i benvenuti perché questa è la serata che fa per voi. Maurizio, chi è con te dall'altra parte del vetro? Dall'altra parte del vetro c'è Alice, in ogni caso. C'è Alice. C'è Alice. Poi avremo modo di sentire anche la sua vocina. Però presentiamo i protagonisti di questa serata. Hanno un nome davvero particolare. Le canzoni da marciapiede. E diamo il benvenuto a Valentina e Andrea. Buonasera ragazzi. Grazie, buonasera. Innanzitutto devo dire che ci fate un grande onore perché siete arrivati da Spezia giusto per venirci a trovare, giusto per regalarci le vostre canzoni che noi abbiamo imparato a conoscere e vorremmo consigliare anche a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere essere qua stasera, abbiamo fatto molto volentieri il viaggio per portarvi la nostra musica dal vivo e abbiamo apprezzato già il vostro lavoro ascoltandovi, quindi speriamo di fare una bella serata. Benissimo, assolutamente, sarà bella, bellissima serata, anche perché ci sono dei pezzi che veramente li raccomando sì in partenza agli ascoltatori. Allora questa è Blue Radio Veneto, ricordo già il nostro sito internet blueradioveneto.it, questo per permettere anche agli ascoltatori di entrare in contatto con noi anche via streaming audio, mentre le nostre frequenze tradizionali ormai le conoscete tutti. Allora, canzoni da marciapiede, innanzitutto ci spiegate il perché di questo nome così particolare? Chi inizia? Bella domanda. Perché ci sentiamo musicisti semplici, musicisti di strada, fondamentalmente. Sì. Ci siamo avvicinati alla chanson réaliste, abbiamo conosciuto Edith Piaf ed abbiamo apprezzato tantissimo il suo cantare per le persone, per i passanti, per le persone che passavano di là. E questo sicuramente è stata, questa è stata una delle nostre ispirazioni maggiori per il nome. Si può aggiungere il fatto che le nostre canzoni in effetti parlano di vita molto terra a terra, diciamo così, quindi di situazioni quotidiane, situazioni effettivamente che si possono vivere in strada, sul marciapiede, palpare con mano, quindi sì, esatto. la nuda, diciamo, e cruda realtà. Sì, sì. Usiamo poco la metafora, siamo molto terra a terra in effetti. Molto diretti. Sì, è questa la sostanza, è questa. Non c'è molto da aggiungere. Anche perché nel corso della trasmissione avremo modo di ascoltare i testi che in alcuni casi sono anche molto molto forti, nel senso che riportano proprio un quadro d'insieme di quello che sta accadendo e senza mezzi termini a volte. Sì, è un occhio all'attualità, anche al sociale, ad alcuni aspetti della società attuale, visto in maniera spesso abbastanza cruda in musica. Siete partiti dal prog e siete arrivati al cabaret tedesco. Come vai questo palzo enorme dal prog al cabaret tedesco? Anche se il prog ha qualche attinenza col cabaret tedesco al limite. Vabbè, il prog ha attinenza con tutto. Appunto, quindi, esattamente, con tutto. Qualsiasi cosa tu suoni o è jazz o è prog, quindi certo, va bene, certo. Ok. Perché potrei dirti in due parole: abbiamo fatto di necessità virtù, anche se poi in realtà il discorso è molto più complicato. Abbiamo avuto trascorsi in una band che si chiamava Antitesi, abbiamo inciso un disco, abbiamo girato parecchio l'Italia. Avete girato l'Italia, quindi avete fatto spettacoli dal vivo. Abbiamo fatto un bel po' di spettacoli dal vivo con questo rock progressive in italiano, con pezzi nostri in effetti, già all'epoca. E poi, come è natura delle band di tanti elementi, l'andare avanti porta poi agli scioglimenti, ai cambi di formazione. Ci siamo ritrovati in due, felicemente, poi direi, aggiungerei che la cosa sia conclusa anche molto bene dal punto di vista personale, e abbiamo scelto, piuttosto che passare formazione su formazione e trovare musicisti che poi magari non condividevano appieno le nostre scelte musicali, di intraprendere un percorso in due, sfruttando ciò che siamo, un pianoforte e una voce. Allora iniziamo subito con l'ascolto di un primo pezzo e poi torniamo a commentarlo insieme e presentare anche tutto il vostro lavoro. Allora diamo spazio all'ultima della quindicina. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci qua ancora con Blue Time Live. No, non avete sbagliato frequenza, è sempre Blue Radio Veneto quella che state ascoltando. Abbiamo appena ascoltato la canzone L'ultima della quindicina, una versione d'ascolto un po' particolare che sembrava riportarsi indietro ancora con un grammofono, un 78 giri, e ascoltare scricchiolante la voce e il pianoforte delle canzoni di Marciapiede che sono qui con noi questa sera. Allora, ancora buonasera ad Andrea, buonasera a Valentina. Buonasera a voi. Allora, abbiamo ascoltato una canzone che si trova proprio giusto a metà del disco, che prima non avevamo nemmeno presentato col nome, ricordiamolo adesso, Al pranzo di nozze si intitola. Ma sì, siamo partiti da questa canzone per indicare quello che è il, diciamo, il clima delle vostre interpretazioni, e per cui musica che riguarda la chanson réaliste di qualche tempo fa, erano gli anni 30-40, eravamo, diciamo, tra le due guerre, e questa era un tipo di canzone cabaret, canzone teatro, sì, che veniva molto, era molto di moda soprattutto nell'alta borghesia, diciamo, francese piuttosto che tedesca. Sì, tornando al discorso di prima, era anche di moda nella strada, nel senso che questo era quello che cantavano anche cantanti agli esordi, le piaf degli esordi cantavano per strada la Marsigliese piuttosto che cose del genere, ecco. Allora, mi viene in mente la Marsigliese perché in effetti fu uno dei pezzi che fecero emergere la vocalità della piaf, questo è un dato storico. E le atmosfere del disco in parte riportano alla chanson réaliste, al cabaret, che poi in effetti sono parte del nostro spettacolo, sì, dello spettacolo che portiamo spettacolo in giro. Lo spettacolo in costumi di scena burlesque, siamo solitamente in cilindro e boa di struzzi, pizzetti, merletti, e in questo caso ci ha portato indietro nel tempo Armando Fiorenza, che è il fonico che ha registrato il nostro album alla Spezia, e quindi si è divertito utilizzando un sacco di diavolerie, di ammenicoli vari sul suo meraviglioso mixer, ed è riuscito a fare quello che desideravamo, ovvero andare indietro di tanti anni per riuscire un po' a dare l'atmosfera che normalmente diamo visivamente nei nostri spettacoli. Abbiamo parlato di piume di struzzo, e tra altre cose questa sera ti sei portato un esemplare di piuma di struzzo. Assolutamente. Maschio o femmina? È una femmina rossa, naturalmente. Il noto struzzo rosso. Il noto struzzo rosso, sì, conosciuto, conosciuto. Assolutamente. Allora, adesso magari i nostri ascoltatori non potranno vedere subito le foto in questa serata, però prossimamente, tanto per così dare maggiore curiosità alla radio, perché la radio normalmente non si vede, invece noi diamo la possibilità anche ai nostri ascoltatori di vedere poi anche le foto di quello che succede durante, diciamo, la serata, per cui le piume di struzzo vanno più che bene per dare colore alle nostre immagini. Anzi, ne approfitto per salutare anche Gilles, che sta seguendo la parte fotografica della trasmissione. Hai citato Edith Piaf, c'è un motivo. Edith è un'altra cosa oltre a Edith Piaf. Che cos'è Edith per voi? Una roulotte? Ah, sì. Quello è Edith. È la nostra roulotte teatro viaggiante. Perfetto. Ah. Si chiama Edith la roulotte, il nome per gli amici, ed è una cosa che abbiamo ideato l'anno scorso, l'abbiamo acquistata a giugno, ed è un esemplare che veniva costruito intorno agli anni 60, dagli anni 60 agli anni 80 in Francia. È una roulotte pieghevole che è stata interamente... Rapido si chiama. Rapido. Rapido. Con l'accento sulla O. E va in giro come fosse un piccolo carrellino, e poi quando si arriva sul luogo tutta la gente si ferma a guardare che cosa stiamo combinando, perché cominciamo a sudare, a montare, e nel giro di 10 minuti abbiamo la nostra roulotte teatro, con Andrea all'interno, con il suo bel cilindro e il suo tight. Si aggiungerei il fatto che è allestita come un teatro, nel senso che... Sì. completamente decorata sia dentro che fuori, fuori dall'artista spezzino Alessandro Ratti, che ringraziamo, e quindi è una sorta di origami che diventa poi una roulotte, appunto, che ci ospita per le nostre performance. Dove l'avete parcheggiata la roulotte? In questo momento in un centro spezzino, è rimasta a Spezia. La roulotte stava meglio lì, diciamo. Sì, è stata portata via dall'alluvione del 25 ottobre scorso, che abbiamo avuto purtroppo dalle nostre parti. E quindi è stata poi messa in salvo, ovviamente con molta calma. Abbiamo aspettato almeno un mese che i vigili del fuoco facessero tutte le cose che hanno dovuto fare in maniera grandiosa, e poi quando avevano finito di mettere a posto tutte le cose urgenti, hanno pensato anche di recuperarci la roulotte. Perché una volta si usavano i Volkswagen nella West Coast, si usava la Volkswagen colorata, adesso voi usate la roulotte. Esatto. C'è sempre un collegamento, un qualcosa che ci lega all'essere andare in giro a suonare, a interpretare la musica. Sì, esatto. Siamo stati recentemente ad un festival di strada ad Alatri, per esempio, quindi abbiamo provato per la prima volta l'emozione di partecipare ad un festival di artisti di strada, tra l'altro organizzato stupendamente, è stata una bellissima esperienza, e con noi c'era anche la piccola attrice Alice, che è qui seduta al nostro con fianco. Con la cuffia. Sì, alla con la cuffia. Vorremmo sentire anche la voce di Alice, se ci viene concesso. Alice, ciao! Ciao! Come stai? Tutto bene? Benissimo! Hai fatto un bel giretto con le canzoni da marciapiede? Certo! Qua. Certo! Sentiamo che è già molto, molto vivace anche con la lingua, quindi assolutamente un'attrice di prim'ordine in questo caso. Sì, Certo. Poi magari Alice ci racconterai anche come si svolge la tua come dire, collaborazione con questi due signori. Li conosci bene? Certo. Ci conosciamo, insomma, ogni tanto ci troviamo. Ci si frequenta. Dalla mattina alla sera. Direi di sì. Benissimo. Allora, visto che abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori che le canzoni da marciapiede sono arrivati con un pianoforte digitale, direi che è giunto il momento di far ascoltare anche alcuni estratti di questo disco, che si intitola Al pranzo di nozze. E con cosa si può cominciare se non con il pranzo di nozze? Attenzione, allora già via qua c'è l'inghippo. Okay. Sì, dai. Ah, sì. Allora cominciamo con il pranzo di nozze a Blu Radio Veneto. Il pranzo di nozze, un mazzo di carte sfuggito alle mani di un baro distratto. Si rompe la scala, si spezza la coppia, la donna di fiori rassetta la gonna. Il fante di picche, deposte le armi, gradisce far paio col fante di fiori. Il re di denari, con fare un po' ardito, affronta di petto la donna di cuori. Questo per dire, con il giusto spreco di fine metafora e d'allegoria, che al gioco di nozze tra baci e verdura si tira a far punti con la figura. Al pranzo di nozze si incrociano storie che in casi normali sarebbero aliene. Tra loro si sente un vociare di lingue da facce diverse che sembra Babele. L'amica di lei la conoscono tutti, almeno un buon numero di ospiti maschi. È rosa che sembra un confetto, quando apre la bocca non sembra parli. Vecchia abbigliata come lampadario, la polvere addosso, Dani rinchiusa a far salva Danaio. Tra figli e nipoti esce ai funerali e ai matrimoni. C'è quello normale che trova il suo angolo, siede, festeggia, si alza e saluta. Lo noti soltanto per il posto libero che lascia in sala la sedia vuota. Il timido zitto, il cafone che urla, il banchetto non calza la mezza misura. Vestiario a due zampe di specie rare, che a metterle insieme ci vuole fortuna. Lo zingaro passa paziente tra i tavoli, ma non mazzetto di lilla e di rose. Non caccia uno spicciolo, neanche il pastore sa che la donna gradisce altre cose. Il fratello di lui siede con un amico e gli parla vicino, così sottovoce. Sorride tenero chi ha capito che strada audace gli ha detto il cuore, e si immagina gli occhi del padre, orgoglio antico di padre padrone, cui oggi il destino, sposando una figlia, cala l'inverno sul proprio cognome. E mentre gli sposi sorseggiano lieti bicchieri leggeri di vino del Chianti, è pronta ad esplodere a mietere vittime la roulette russa degli invitati. Di rose colora il soffitto, ricade a terra, nessuno lo coglie. Evidentemente nessuna ragazza stasera voleva sognarsi moglie. Cravatta tagliata fa il giro dei tavoli, raccoglie sorrisi ma il piatto piange. Saranno i bicchieri di troppo, ma gli invitati hanno altro da dirsi. Son tempi che in casa si tira la cinghia tra disoccupati, il lavoro e le tasse, non si compra carne, le casse son rosse. Abbuffiamoci al pranzo di nozze. Il pranzo di nozze è un gioco di ruolo che poco discosta da una lotteria. Lo specchio del mondo magari è un po' troppo, ma un posto tranquillo per farsi un'idea. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Così abbiamo capito quella che è la musica delle canzoni da marciapiede con Al pranzo di nozze, che è il titolo della canzone che ci siamo ascoltati in versione acustica. È Il pranzo di nozze. Al pranzo di nozze è il titolo del CD. Sarebbe stato facile. E fai bene a correggere. Stato fatto apposta. Ogni volta io cerco di leggere Al pranzo di nozze. Ci piace confondere. E la cosa divertente è che tutte le volte che ai concerti naturalmente presento il CD, rimango sempre interdetta e penso, allora, ecco signore e signori, la canzone è Al pranzo di nozze. Ah, vedi che sbagli anche tu allora. Vabbè, comunque allora ripetendo, le canzoni da marciapiede, Al pranzo di nozze si intitola il CD, Il pranzo di nozze invece è quello che ci siamo ascoltati in questo momento. Abbiamo vissuto un quadro che chi non ha vissuto prima, nel senso, chi non è stato almeno invitato una volta a un pranzo di nozze e chi non ha visto tutto quello che avete visto voi, era forse il vostro pranzo di nozze? Questo non si può dire, forse potrebbe essere, non si può dire. Riguardando i filmini forse abbiamo scoperto dei personaggi, però forse sono tanti pranzi di nozze quelli che rappresentiamo. Certo, diciamo che gli sposi forse non si accorgono degli invitati, ma sono tutti gli altri che si scrutano l'un con l'altro, per cui questo, esatto, diciamo, è una foto di gruppo, un riassunto preso da uno piuttosto che dall'altro, una visione di sinistra, sì, o di destra dell'intera tavolata. Sì, diciamo, esatto, che sono, sì, più gli invitati che si scrutano tra di loro, in effetti, seguendo il tuo ragionamento. Sì. Alla fine è un microcosmo, un pranzo di nozze, come un qualsiasi contesto, un ufficio, sì, un'assemblea condominiale, mi viene in mente. Molto colorita anche quella. Esatto, sì, sono situazioni in cui c'è una forzata, tra virgolette, convivenza di persone che non appartengono allo stesso mondo. Che normalmente non appartengono allo stesso mondo e che portano con sé comunque tutte le loro caratteristiche, gli scheletri nell'armadio. E musicalmente come l'avete incastonata il pranzo di nozze? Io, un critico ha scritto più cabaret tedesco che quello francese. Aiuto. Aiutateci. Non sapremmo dare una definizione. Cioè, io qua addirittura ci sentirei più De André, tra virgolette, cioè, sì, ci sentirei più una musica d'autore italiana, quindi più francese, ecco, qui più la Francia che non la Germania, francese, direi sicuramente. Beh, sicuramente la scuola francese, e voi che siete parte della Liguria, sicuramente una brezza di scuola francese è arrivata fino alla Spezia. Beh sì, non si è fermata a Genova, è arrivata oltre, ha invaso un po' anche noi evidentemente. Sì, comunque c'è molto del cosiddetto cantautorato italiano che poi si rifà appunto alla scuola francese, Brassens piuttosto che altri autori. Un po' di eco di questa scuola è arrivata anche a noi, anche se normalmente non ci poniamo mai il problema di appartenere ad una cosa piuttosto che all'altra. No. In effetti la tua domanda mi ha messo realmente in difficoltà, perché non abbiamo mai pensato questo pezzo che cos'è. Ci vengono parole. È così e basta, praticamente. È così. Cerchiamo sì. di. Testi e parole li scrivi te, no? Musica, diciamo, e parole. Che li scriviamo, li scrivo tecnicamente io. E poi sulla Valentina base ti dà una mano. Di, spesso di storie che mi vengono scritte in prosa da Valentina, quindi di fatto li scriviamo insieme. E musicalmente, Valentina ti ha dato una mano o hai musicato te i pezzi? Le musiche normalmente le faccio io, la parte di melodie vocali la cura per Valentina, quindi mettiamo poi insieme le due cose. Certamente. Ma prima di questo progetto, Maurizio parlava appunto del vostro fare prog, no? Insieme a un altro gruppo, ricordiamo era gli Antitesi. Eccola. Ripeti, scusa? Antitesi, non mi veniva. Abbiamo tra l'altro noi portato dietro il nome Antitesi sì. per parecchio tempo, è da più o meno un anno e mezzo che ci chiamiamo le canzoni da marciapiede, perché effettivamente Antitesi poi erano di Andrea, erano l'idea di Andrea, già all'epoca Andrea scriveva i brani e quindi abbiamo continuato così con quel nome. Però effettivamente sì. Andrea era conosciuto con questa band praticamente. Esatto, sì. Ma sì, volevo sì. chiedere questo, voi avete fatto anche, diciamo, teatro, altre esperienze teatrali o questa è la vostra prima forte esperienza teatrale? Questo arriva da una collaborazione con Enrico Casale, che è il regista della Compagnia degli Scarti, che sta lavorando tantissimo alla Spezia, è una realtà giovane di grande livello. E già il fatto che si chiama Degli Scarti mi dà modo anche di fare un provino lì all'interno. Sì. Okay. Sono tutt'altro che scarti. Ecco, però in effetti sì. E quindi è cominciato tutto da lì. Diciamo che abbiamo collaborato con Enrico Casale in realtà perché abbiamo messo su uno spettacolo con degli allievi della scuola di canto in cui io insegno insieme al mio maestro Luciano Bonci di Sarzana. E abbiamo messo su uno spettacolo molto carino con alcune tra le voci più belle della scuola e appunto abbiamo chiesto ad Enrico Casale, che già conoscevamo, un aiuto circa la parte scenica dei ragazzi. Volevamo che imparassero un pochino a stare sul palco, a saper interpretare una canzone, quindi chi meglio di lui poteva aiutarci in questo. Ci ha fornito anche, fornito tra virgolette, due attori che hanno partecipato allo spettacolo e poi mentre lavoravamo a questo Enrico ha cominciato a chiederci per quale ragione non facessimo brani di Edith Piaf, data la mia vocalità, dato il fatto che Andrea suona, come avete sentito, il pianoforte e quindi da lì è dall'età di sei anni, dall'età di sei anni, tu suoni il pianoforte dall'età di sei anni. Di sei anni. Sì, all'incirca. Ho iniziato all'età di sei anni, sì, quindi sì, mi sono informato. Sì. Assolutamente. Ha studiato benissimo. Sono informato di tutto. Ma che bravi. Ha chiamato i genitori. No. E quindi sì. è nato poi tutto da lì. Abbiamo cominciato con un brano, poi l'altro. Noi facevamo altre cose, facevamo Fabrizio De André, David Bowie, Beatles. Cose di David Bowie? Life on Mars. Bella, molto bella. Space Oddity. Bello. Un secondo ce l'hai. Un momento Life on Mars lo puoi fare, un momento. Un flash. Vediamo. Vai, ne ricordo un attimo. Sì. Te ne ricordi? It's a god-awful small affair with a girl with a mousy hair. Va bene, era lei. Il vuoto. Era Life on Mars, siamo d'accordo. Bene, quindi abbiamo fatto divagazione sul tema Ziggy Stardust, quindi con David Bowie. E, va bene, ritorniamo con le canzoni da marciapiede pranzo di nozze, il CD. Scusa? Sì, scusami, sì. Volevo concludere questo concetto, sì, sì. Poi praticamente da lì è arrivato il primo brano di Edith Piaf, poi oddio che bello il secondo, e quindi abbiamo iniziato ad inserire il Giro di Giostra, che è il prossimo brano che vi faremo sentire. E poi è arrivato tutto il resto, sì, Marlene Dietrich. È stata un'evoluzione molto naturale, però alla fine sì. Siamo entrati nel vortice, ci siamo trovati bene dentro, ci rimaniamo. E quindi, giustamente la tua vocalità, Valentina, si sposa bene con i pezzi che scrive Andrea, si sposa bene. Sicuramente meglio, sì. Sicuramente meglio che noi in una band praticamente. Certo, sì, anche perché i brani sono stati ovviamente costruiti tutti sulla base della mia vocalità, quindi non sono, cioè sono proprio adattati perfettamente. nel momento in cui componiamo i brani lo facciamo insieme dal punto di vista della melodia vocale. Magari Andrea trova la musica in altri momenti, comincia a suonare, lo si sente magari studiare un brano per un po' e poi arriva il testo e da lì in poi cominciamo a lavorarci proprio in maniera vicina, stretta, e quindi naturalmente i brani mi calzano. Certo, certo. Benissimo, allora ricordiamo agli ascoltatori di Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Time Live stiamo intervistando le canzoni da marciapiede, Andrea e Valentina, che ci stanno addentrando piacevolmente all'interno di questo loro lavoro che si intitola Al pranzo di nozze. E quindi adesso un invito a prendere i gettoni e di posizionarsi bene, perché c'è da fare un giro di giostra. Eccoli qua, le canzoni da marciapiede. Credimi, non è piacevole sentirsi ospite in qualunque posto stai. La carovana di gitane e maghi, baracconi e ladri si riposa qua oggi. Ignoranze e dicerie le aprono la strada, puzzo acre di falò. Bruciano stracci e copertoni, suonano i violini, ma alla festa io non ci sarò. Polvere che si fa nera sulla pelle a letto tra zanzare e stelle. Leggo un libro di poesie sognando donne gagi che vanno a ballare. Credimi che non è facile sentirsi libro che nessuno sfoglierà. Leggere quanto sei sgradito dentro agli occhi dei vicini che ti schivano. Contemplare silenzioso lo sbocciar di fiori nuovi dietro al campo. Accontentarsi dell'odore, trattenere il fiato per tenerlo ancora un poco in te. Finché un bel giorno pensi che quei fiori in fondo un poco t'appartengono. Se proprio non si fanno cogliere, li puoi strappare. E fammelo fare quel giro di giostra. Son venuto apposta a provare come si sta sopra di te. Fammi salire, che cosa ti costa? Se ti metti in mostra non puoi pensare, non ci si accorga di te, lasciati fare. E fidati, tra un po' ti piacerà, stai buona femmina, nessuno ascolterà se urli, ne verrà a salvarti, che da queste parti è meglio stare zitti e muti. D'altro canto quest'Italia che si batte il petto la domenica mattina, messa e frigida e repressa, se confesso e piango pegno certo assolverà. Matrimonio combinato, tradizione antica a cui mi adeguerò. Ma oggi ho voglia di sfogarmi e delle sole mani non mi basterò. E fammelo fare quel giro di giostra. Son venuto apposta a provare come si sta sopra di te. Fammi salire, che cosa ti costa? Se un pugno non basta, sarà il coltello a ragionare con te. Lasciati fare. Bastardo, ma non so chi è stato a fare questa pozza tutta rossa sopra il pavimento e il corpo freddo addosso. Di chi è? Ricordo di essermi trovato dentro un bar del centro, di aver chiesto a una ragazza sola un appuntamento. Mi ha risposto: sporco zingaro, ti sposti o no? Ho provato a dirle che l'avrei portata fuori e le avrei preso un fiore. Quella risata secca, ho tanto mal di testa, sento forte il cuore. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sempre all'interno di Blue Time Live con le canzoni da marciapiede che ci stanno presentando il loro lavoro che si intitola Al pranzo di nozze. In questo caso ci siamo ascoltati Il giro di giostra, che propriamente non era quello che intendavamo noi con i cavallini, le giostre a scontri, le altalene o altre cose, però c'è un giro un po' meno piacevole, probabilmente c'era un'ottima descrizione all'interno del testo, e soprattutto con questa vocalità suprema di Valentina che descriveva cantando e recitando tutte quelle che erano le emozioni di questa canzone, quindi una canzone forte, Valentina. Sì, quello che può derivare dalla... aiutami, Belmo. Dalla mancanza di solidarietà. Di solidarietà, sì, di integrazione, dal rendere diverso qualcuno. Cosa nasce? Abbiamo pensato a come si può sentire una persona che si sente discriminata e quindi che ha gli stessi desideri che ha ognuno di noi, però non li può realizzare nello stesso modo. Un critico, oltre a parlare di valzer triste e cadenzato, ha parlato di Laura Betti, una cosa molto bella. Ti ha avvicinato a Laura Betti, a qualche pezzo di Pasolini. Questo un critico ha scritto. Io e Flavio siamo d'accordo, perché Laura Betti aveva quel modo di interpretare i pezzi di Pasolini, spiegandoli anche dal punto di vista visivo. E tu l'hai spiegato a noi dal punto di vista visivo. Grazie. Almeno. Sì, è importante, a noi importa molto che si capisca, cioè che alla gente arrivi il testo. Certo. La musica è un pretesto. È un pretesto, diciamo, chiaro. Scusate il gioco di parole, per far arrivare comunque in questo caso un messaggio... forte. Decisamente forte. In un certo senso... potremmo anche definire questo pezzo un inno in realtà alla solidarietà, come anticipavo prima. In effetti è una violenza fatta da qualcuno che è stato in effetti messo in gabbia, tra virgolette, anche se una gabbia virtuale, diciamo così. Cioè la discriminazione in effetti porta con sé poi uno strascico inevitabile di violenze nel lungo periodo, un dato di fatto, lo vediamo tutti i giorni. E i fatti che abbiamo letto e sentito ci hanno portato a pensare queste cose. Scusa, anche se mi viene in mente quello che dice Claudio Barone, che è il produttore esecutivo del nostro album insieme ad Andrea Foce. Claudio sostiene, ascoltando questo brano, che poi in realtà non si sa se questo crimine descritto in questa canzone sia stato in realtà commesso da questo ragazzo. Perché in effetti c'è un momento in cui si dice: mamma, ma che cosa ho fatto? Ma io ricordo solo di essere stato in questo bar, quindi non mi pare di aver fatto niente. Sì. Quindi anche poi quello che può nascere dietro, cioè quello che magari a volte può dire la stampa, spesso capita di ascoltare, guardare il telegiornale e sentir dire: commesso crimine da, tizio della nazionalità. Tot, e quindi eccetera. Diciamo, c'è sempre lui... un'etichetta in effetti. Esatto, dietro... esatto, lui l'ha letta così e mi è piaciuta tantissimo la sua chiave di lettura. Noi sì, l'abbiamo immaginata. Noi l'abbiamo immaginata in un modo, però è normale che la canzone nel momento stesso in cui esce da noi diventi, sì, anzi è la natura stessa di una canzone, di una poesia, di una poi qualsiasi forma d'arte. Ognuno la interpreta, la fa proprio in base anche alle parole, alle sì, frasi, sì, e quindi la recepisce magari in uno stato d'animo un po' particolare, magari non sempre è quella che è la traduzione che avete voluto dare voi in, assolutamente, diciamo, ma è la cosa bella, è la cosa bella questa, perché sì, effettivamente dare spazio a questo. Poi i vostri testi danno proprio molto molto importanza ai testi, quindi essendo sì, solo pianoforte e voce si ascolta sì, quello, cioè non sì, ci sono sì, altri strumenti sì, che portano fuori strada, diciamo, quindi si ascoltano e ben volentieri. E in questa difatti è molto anche difficile riconoscere quella che è la dimensione acustica live di questa sera da quello che è il disco, perché ecco, effettivamente si ecco, permea è la sempre, stessa cosa sempre, quindi diciamo che il live e il disco hanno sempre una un'impronta importante teatrale, e anche quella che raccontate è la vita di tutti, sì, di tutti i giorni. Allora, una domanda che devo fare relativamente alla copertina del disco, perché l'ho trovata davvero bella, e soprattutto una di quelle copertine che puoi tenere tranquillamente a tavola senza paura di sporcarla, no? Esatto. Nel senso che in questa copertina ci sono parecchie macchie di, sì, di vino rosso, sì, possono essere solo quelle, sì, o di sugo di pomodoro, sì, chiamiamole sì, così. Chi ha ideato questa copertina? Chi è il pasticcione? Il pasticcione è Giuseppe Vitale, che collabora con noi anche dal vivo quando è possibile, è in scena con noi in qualità di disegnatore, l'abbiamo definito così. Lui è un ottimo illustratore che fa schizzi a china piuttosto che con altre tecniche. In questo caso ha utilizzato molto, nel caso del nostro CD, ha utilizzato la china ed alcune carte elaborate in modi strani che non saprei dirti. E in scena con noi lui fa la stessa cosa che ha fatto per il disco, ossia tratteggia degli schizzi, in questo caso dal vivo, durante gli spettacoli. Fa una performance nella performance. Esatto, sì, sì. Ci piace questa cosa, soprattutto quando ci troviamo nei posti giusti, nei teatri che possono accogliere e alcuni attori che ci danno una mano. E sì, li salutiamo, Ino Cecchinelli, Raffaele Briganti, appunto Giuseppe Pepe. Vitale. Loro ogni tanto vengono con noi ed è bellissimo arricchire il nostro palco con la loro presenza, perché sono tre attori straordinari che regalano un po' di, insomma, un po' di scena. Sì, danno soprattutto vita ai personaggi delle canzoni. E poi i disegni che fa il vostro disegnatore con... Li regalate al pubblico? I disegni vengono spesso richiesti dal pubblico, lui li espone in diretta, quindi durante lo spettacolo lui li appende. Sì. E per chi è curioso, ci sono sul nostro sito alcuni spezzoni. Ricordiamo il sito. Sì, il sito è lecanzonidamarciapiede.it, esattamente come il nostro nome, tutto attaccato col punto it in fondo. Lì c'è una sezione contenente i testi, nella quale si possono leggere tutti i testi delle canzoni dell'album e non, i video in cui appunto si possono vedere alcuni estratti degli spettacoli teatrali con la presenza anche di questi amici attori, illustratori, eccetera, e si può conoscere un po' meglio il nostro mondo, eccetera. L'altro, anche l'ascolto di tutto il disco in streaming gratuito. Ah, bene. Io ho letto un'intervista in cui Valentina parlava della scena fervida, abbastanza bella, che c'è alla Spezia, quindi fa parte di questa scena l'attore, gli attori che vi danno una mano. Sì, sì. Non ho capito la Alla Spezia tu parlai di una scena molto molto importante di movimento musicale, anche di cultura, questo volevo dire. Sì, assolutamente. In questi ultimi anni abbiamo trovato tantissime realtà in cui esibirci, e questa è stata una grandissima fortuna, perché grazie al numero di live che abbiamo fatto in questo periodo abbiamo potuto formare la nostra esperienza. E quindi sì, siamo contenti di avere questa opportunità. In altre città d'Italia sappiamo che la situazione è molto più difficile per i musicisti. Adesso tutti i musicisti d'Italia manderanno quintali di email alla Spezia. Beh, diciamo, o vanno alla Spezia o vengono non qui a Blu Radio Veneto. Non fatelo, noi facciamo entrambe le cose, ecco, per non giusto. Sbagliare. Perfetto. Allora, spazio ancora alla musica di Le canzoni da marciapiede, ancora con Andrea e Valentina. Eravamo per metterla da disco questa canzone all'inizio, però poi Maurizio ha voluto metterla live. Quindi L'albero dei soldi. L'albero dei soldi, un pezzo molto bello che noi abbiamo qui a Blu Radio Veneto, abbiamo lanciato, grazie anche al nostro direttore artistico Alberto, che lo salutiamo, Alberto Prisco. Abbiamo Ciao. Lanciato Alberto. Questo pezzo che è molto vivace, molto trascinante, secondo me, questo piano che trascina la tua voce e tu chiaramente fai quello che devi fare dal punto di vista musicale e vocale. Molto bello, secondo Grazie. Me. Grazie. Benissimo, ci ascoltiamo allora. Vorrei il libro blu dell'interpretazione dei bisogni. I sogni li ho perduti via facendo, ma mi accontento di un'indicazione chiara verso l'albero dei soldi. Poi ci metta una pastiglia per restare svegli, una specchiera per vedersi belli, dei menestrelli che improvvisino una danza mentre capicollo giù. No, non sono matta, forse un pizzico distratta, ma col caldo di Calais come si fa? Ho il carrello pieno, ma una cosa che mi serve anche a cercarla con la lente, no, non c'è una guida alla pesca dei miracoli precotti, precetti da seguire per salvarsi, per non trovarsi sulla soglia di 80 anni retrocessi in serie B. Quadri astratti tingono di rosso se li guardi appesi nudi e gratis. Stufa a legna che è tale quale a quella dei miei nonni, che scalda come quella di quegli anni quando i miei nonni l'hanno fatta buttar via perché col gas che poi risparmi. Un sacchetto a pois organico e perciò non inquinante, fa bene al portafoglio e anche all'ambiente, è conveniente ma è la sparta della spesa in stoffa di 30 anni fa. Stare dietro al mondo di corso singhiozzando è un'impresa proprio che non riesco a far. Slaccio l'orologio, stacco il calendario e benedico la mia irregolarità. Lumi accesi per la commemorazione degli stolti, conversazione ormai senza argomenti, resta tra i denti l'ombra timida di un grazie che non riesco a tirar via. Questo è il gran bazar delle intenzioni, dei potrei, del non cambio mai. Cerco identità tenuta bene se si può. Chi sono non so. Poi mi spieghi tanta fatica per tirare avanti, inciampare e poi tornare su quei passi, fatti di fretta sulle orme di passanti riflessivi più di me. Ecco il gran bazar delle intenzioni, dei potrei, del non cambio mai. Quadri astratti tingono di rosso se li guardi appesi nudi e gratis. Cerco libertà dalle catene che non ho, ma che acquisterò col tempo. Identità tenuta bene se si può. Chi sono non so. Chi sono non so. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questo pezzo, si intitola Le canzoni, l'albero dei soldi, le canzoni da marciapiede sono con noi, al pranzo di nozze è il titolo del CD. Allora, questo l'albero dei soldi, innanzitutto vorremmo sapere dove l'avete trovato. Non l'abbiamo ancora trovato. Ah, non l'avete ancora trovato. No, è probabile che nella società odierna nessuno l'abbia trovato. Neanche con Google Maps? No. No, niente. No. Okay. Ma neanche su eBay, credo, no. Noi frequentiamo parecchio il virtuale, ma non crediamo ci siano. Però se qualcuno lo dovesse trovare, si può rivolgere al nostro sito, al nostro spazio, esatto. Facebook, il nostro gruppo Le Canzoni da Marciapiede, e scrivere, magari potremmo... Penso che nessuno di loro lo farà, ecco. conoscendo l'altruismo che c'è nel mondo... Esatto. Sì, diciamo che ognuno lo tiene per sé, in realtà invece farebbero bene a dirlo, insomma, tanto per capire un sì. po'... Ecco, sì, dove, quando, come. Vabbè, le canzoni da marciapiede, troviamo a bomba, ricordando appunto il disco che si intitola Al pranzo di nozze. Tra altre cose, all'interno del CD c'è anche un libricino che consente di seguire anche i testi. Sì. Mi interessava molto scoprire la parte lirica di Valentina, che adesso si è espressa proprio in un vivace finale. Allora. Sì. Sì, il mio maestro di canto, ho accennato prima, è Luciano Bonci ed è un famoso tenore lirico, insegna canto lirico e canto moderno. Quindi io in realtà sono formata come cantante moderna, però ogni tanto da lui si fa anche un po' di lirica, perché è giusto per un cantante comunque impostare la voce anche a livello del bel canto. E quindi si fa anche un po' quello. Abbiamo anche preso parte ad un coro, io e Andrea, di musica antica. Sì. E quindi Andrea era detto il tenorino, io il mezzo soprano, perché quella è la mia estensione in campo lirico. E quindi niente, da lì che deriva. E poi è molto bello per me utilizzare la voce in tutte le sfaccettature, quindi tutto quello che è possibile. E beh, in questo pezzo... che è leggermente diverso dal disco, cari ascoltatori, e diremo molto diverso dal disco, secondo me, soprattutto nel finale, Flavio. E poi il bello di questo pezzo è che si ferma e accelera, si ferma e accelera. È quello che ha suscitato la nostra attenzione, io da Alberto. Ci ha incuriosito il fermarsi ed accelerare. Non è un stop and go alla batteria, però potrebbe essere una cosa simile. Sì, è un po' una nostra caratteristica, lo facciamo... Sì. Per dire, nel giro qualche... di giostra ci sì, sono degli stop and go, in effetti, certo. Se andiamo a vedere. E questo è l'aspetto, uno degli aspetti divertenti del fatto di essere in due, di suonare tutto dal vivo. Cioè anche il disco in realtà non è altro che una presa diretta ben fatta, diciamo così, con alcune migliorie, integrazioni direi, parti attoriali, certo, cose certo. del genere, ecco, quello che non avremmo potuto fare in diretta noi. Però sì, in realtà il disco è stato girato tutto, è stato registrato tutto insieme in un unico take, ogni brano, quindi tutto dal sì, vivo. Quindi suonando in questo modo alcune accelerazioni sono volute, altre lo sono nate nel corso dei vari concerti, eccetera, si sono sviluppate, siamo arrivati a questo punto qua. Sì, in effetti è un po'... una caratteristica quella di... Hai parlato di un unico take, quindi si ritorna indietro come una volta si usava fare un unico sì, take. Sì, non sì, c'erano sì, tutti sì, gli aggeggi che no. ci sono adesso. No, abbiamo utilizzato ovviamente sì, chiaro, qualcosa, sì. l'informatica nella parte finale soprattutto e poi nella registrazione, diciamo nell'incisione, sì, è stato poi trattato col classico Logic su Apple, cioè, su Mac, eccetera. E però la modalità di lavoro è stata un po' antica, noi suoniamo voce e pianoforte dal vivo, volevamo che si capisse quello che siamo anche sul disco, anche con le sbavature che ci possono essere, che è giusto che rimangano, perché per noi la perfezione non esiste. Siete umani. Siamo umani e ci piace, siete umani. Ci piace rimanerlo. Appunto. Ecco. Benissimo. Viviamo nel difetto. Sì, sì. Allora, Al pranzo di nozze è un bel disco formato da 13 tracce, ma voi ci avete portato anche qualcosa che noi non abbiamo ancora ascoltato. Sì. Anzi, ci avete detto di più fuori dalla diretta, che anche gli altri non hanno ancora ascoltato. Quindi esatto, per noi è un grande onore ospitarvi in questo inedito per tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, sia quelli che ascoltano la radio in via tradizionale, sia quelli che si sono collegati in streaming audio col nostro sito bluradioveneto.it. Come si intitola questo pezzo? Si intitola Niente. Ah, niente? Un titolo semplicissimo. Ah, niente. Esatto. Vabbè, niente. Niente. Eravamo stanchi di compilare Bordereau con accontentarsi delle briciole, il ritorno di Camillo, perché poi si fa una certa, no? Dopo sì, che fai la sì, serata sì, e quindi poi inizi a somatizzare, hai voglia sì, di andarti a riposare. O fai tutti i stampini o... Quindi esatto, c'è stato un momento in cui, visto che i titoli li aveva scelti tutti Andrea, gli ho detto: senti un attimo, adesso facciamo che... magari i prossimi li rendiamo un po' più snelli. Allora, carissimi ascoltatori di Blu Radio Veneto, adesso ci ascoltiamo Niente. Oggi ho visto una signora un po' in età con un cane in una gonna di lilla che abbaiava forte quasi quanto lei. Dentro al mare la temente da Doc Nor di un'aiuola artificiale vista Cop. Se non fosse per il manto, l'uno finto e l'altro no, ammetto mi sarei confusa un po', che in effetti la signora era tutta cinta di una stola gonfia da sembrare panna o schiuma, fatta assai probabilmente di un volpino inconsenziente, parente o conoscente di Fifi. Ma è anche vero che se stiamo a guardar tutto si può aver tutti ragione e tutti torto. Al circo non andare, si maltratta l'animale. Il cuoio è forte e bello, ma che povero il vitello. La carta di quaderno era un albero a sei piani che al rombo di una sega è andato giù. Se così non posso dire, se cos'ha non posso fare, mi dite voi qual è il corretto agire. Niente, mi fabbrico un difetto di coerenza, perché la vita è un furto con destrezza al tempo e il cerchio tondo mai non quadrerà, non quadra. Lento, avvolgo il dito al capo di una lenza sperando l'abbondanza di una pesca, ma è stretto che non mi fa respirare. Oggi ho visto un cano alano bianco e blu dilettarsi al pianoforte a testa in giù, bendato, una zampa sì ed una no. La padrona di Lulu, perché è una lei, dice, l'han bocciata all'esame da DJ. Altrimenti sa quest'ora si ribizza a far fortuna e non su marciapiede a far la piaf. Non è bene costruire una casa dal soffitto e chiunque ti convinca del contrario. Mente, si fan più soldi sopra un deficiente che beve tutto quel che gli singola piuttosto che dar peso ad ogni fiato di parola. Non c'è luce più bella di un sorriso se scalpiti cercando il paradiso. Impara prima a costruirlo qua e ben fatto sempre. Ci provo pure io ma cado in fallo, ma il gioco è nello sbaglio, lì sta il bello. Non c'è castello senza drago. Alle volte le signore un po' in età. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Io ho sentito niente, voi? Niente. Okay. Niente è il titolo del pezzo che ci hanno cantato le canzoni da marciapiede. Non è tratto da Al pranzo di nozze, ma con tutta probabilità voi ci dite che farà parte di un prossimo vostro lavoro. Speriamo di sì. Ecco qua, quindi avete già qualcosina che bolle in pentola. Abbiamo un po' di idee nuove, ci stiamo lavorando senza grossa fretta, anche perché fortunatamente stiamo suonando molto in giro, quindi quando ci avanza abbastanza tempo ci dedichiamo anche alle cose nuove. E andiamo avanti, vediamo. Oltre che dopo i concerti, come si fa ad entrare in possesso di un vostro disco? In tantissimi modi. Bene, elenchiamoli. Allora, contattandoci. Primo. Facendoselo spedire. Che è anche piacevole, perché uno può avere uno scambio con gli artisti, diciamo. No, e non sempre può succedere così. Perché molte volte l'artista è sul piedistallo molto in alto, in realtà. No, nel nostro caso assolutamente rimaniamo, diciamo, sul marciapiede dal quale proveniamo. Agli ascoltatori diciamo che venite avvolti dalla piuma di struzzo. Esatto. Certamente. Avvolgetevi con noi in una morbidissima piuma di struzzo rosa. Sì. E dunque, passando appunto per il sito, che ricordo è lecanzonidamarciapiede.it, è possibile contattarci e richiedere una copia dell'album fisica, quindi con una spedizione postale, modalità di pagamento qualunque, nel senso post-pay, bonifici, eccetera. Oppure si può scaricare da iTunes. Esatto, lì è sufficiente andare nel motore di iTunes, cercare le canzoni da marciapiede oppure Al pranzo di nozze, uscirà fuori tutto l'album. Nel caso di iTunes sono scaricabili, come sapranno già gli ascoltatori, o le singole canzoni oppure tutto l'album. E in questo caso voglio dire agli ascoltatori tutto l'album. Grazie. Prego. No, nel senso che sono 13 pezzi, non tutti cantati comunque, perché ci sono anche due pezzi che ci regalano delle atmosfere un po' anche da cinema muto, se vogliamo dire così. Sì, in un certo senso sì, sono dei rimandi in effetti delle cose che ci piacciono. Cioè uno dei due pezzi è un ragtime che abbiamo intitolato Ragtime del Sempliciotto, trattandosi di un ragtime non estremamente complicato. Ci fai un inizio di questo ragtime? Sì. Ragtime, quindi io mi immaginavo già delle scenette, quelle di oggi le comiche, non so, Olio Stadio piuttosto. O un Charlie Chaplin. Ecco, forse ci stava meglio il Charlie Chaplin in questa situazione. Quindi questo era il Ragtime del Sempliciotto, ma voi avete anche dedicato una canzone ad Alice, anche in questo caso. Alla giovanissima Alice che ci sta ascoltando con grande, grande passione, nel senso che si sta facendo gli onesti cavoli suoi. Esattamente. Si è tolta le cuffie, basta. No, ma giustamente lei è molto a suo agio. Vive comunque nei colori, come fanno tutti i bambini. Sì, o tra i colori, in questo caso Pennarelli. Sì. Quando è in scena con noi, quando capita, c'è la possibilità, in effetti lei fa esattamente quello che state vedendo qua. Sì, quindi fa la bambina. Sì. E oltre a presenta fare lo spettacolo, però presenta lo spettacolo in allora più... sentiamo come presenta lo spettacolo Alice. Allora, Ladies and gentlemen, madame e monsieur, signore e signori, le canzoni da marciapiede. Fantastico, vedi? Bravissima. Allora, se tu sei vestito con un abito scuro e con una tuba in testa, Andrea. Sì, sono una cosa un po' particolare sul palco, nel senso che ho un cilindro in testa, un paio di pantaloni abbastanza classici e apparentemente sono molto elegante avendo una si chiama un uniforme Un'altra uniforme dei carabinieri. Abbiamo scoperto una vecchia alta uniforme che mi dà questo aspetto abbastanza importante. Sì. Se non fosse che sotto poi c'è una bella bretella e una canottiera. Una canottiera macchiata. Esatto. Macchiata è sempre un... stile copertina in questo diciamo caso. Diciamo di sì. Bravo, esatto. Esatto. Sì. È, in un certo senso anche il nostro modo di vestirci è una... Quella è una metafora in effetti. Mm. Nei testi le usiamo meno, però... Nell'abbigliamento c'è questa metafora, nel senso è un uomo che poi a un certo punto dello spettacolo si sveste e mostra il peggio di sé, diciamo così, o comunque quello che c'è sotto le maschere che spesso si indossano. Quello che poi è naturale. Nella quotidianità. Certo, in certo. effetti anche lì abbiamo questa, questa scoperta, diciamo, dell'essere vero. Quindi torniamo al marciapiede nonostante la bella... Invece Valentina, quante hai previsto qualche cambio d'abito durante la scena? C'è un paravento che ti... No, durante la scena è capitato soltanto in una circostanza. Io ho due bellissimi abiti di scena che mi sono stati cuciti da Serena, che ha un negozio di abbigliamento vintage a Sarzana. Non so se voi avete mai sentito parlare di Sarzana, che è un... Abbiamo sentito parlare borgo di Sarzana soprattutto con l'alluvione. Con l'alluvione, purtroppo, ecco. Sì, purtroppo. E lì c'è Serena nel suo kitsch bordello che un giorno ha avuto idea di costruirmi, di cucirmi questo abito stupendo. Perché c'era da raccogliere un po' di soldi per una buona causa. Allora lei ha pensato, visto che si esponevano opere d'arte, aveva visto poche sere prima un nostro concerto ed ha costruito quest'opera d'arte che io mi porto in scena con grande amore. Quindi hai due abiti di scena praticamente. Sì, però esatto. Non ci sono cambi in realtà durante lo spettacolo. Il primo è stato cucito da me, mia mamma, mia nonna, le mie grandi collaboratrici. Una domanda che ho in mente di fare ad Andrea dall'inizio della trasmissione: ma avete il cartello "non sparate sul pianista" oppure no? Possono sparare. Ah, quindi certo. Al limite alleviano la sofferenza di Valentina durante le due ore, si accorcia un pochettino lo spettacolo. Il pezzo nuovo che avete fatto sentire prima, Niente, mi pare, no? E ricordava certe cose degli anni 40 e tu quando cantavi ironizzavi su Wanda Osiris, secondo me. Cioè un po' un'ironia sulla cantata di Wanda Osiris. E a me è venuto in mente quello. Forse è casuale. È casuale. Però è venuto in mente quella cosa là. Probabilmente perché faceva parte dei gesti che faceva, esatto, proprio sì, tutta della, la... Sì, gesticolava con le mani. Sì, mi è venuto in mente quella cosa là. C'è un eccesso in questa canzone. A tale proposito, poi ci piace giocare su queste cose, quindi... Anche, diciamo, a volte su qualche vocina un po' così, un po'... Esatto, proprio in questo volevo arrivare, in quella per cosa. Dare l'atmosfera poi di quello che si sta dicendo. Ti hanno mai chiamato Angelo Azzurro? Non tanto per fare riferimento a Marlene Dietrich. No, mi manca. A Lola. A Die Fesche Lola, che è una canzone che abbiamo sempre nel nostro spettacolo. Ma di Marlene Dietrich, allora? Sì. Non c'entra niente, coi Kinks. Maestro? Coi Kinks, allora, Lola. No, è una Lola diversa. È una Lola diversa. Vero? Altrettanto bella. Esattamente, sì, esattamente. Sì. Ich bin die Fesche Lola, der lieblende Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch kann man Pianola, da lass ich keine ran. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in mein Salon. Und will mich schwer begleiten, da unten aus dem Saal. Da mau ich in die Seiten und tritt es auf Pedal, ja. Lola, Lola, jeder weiß, ich bin. Sieht man nur mal mir hin, schon wer bis sie der sind. Männer, Männer, keinen Kuss ich hier und allen am Klavier. Singet soll mit mir, ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon und will mich wohl begleiten, da unten aus dem Saal. Da mau ich in die Seiten und tritt es auf Pedal. Ich bin die fece Lola, do libri in the season, ich habe ein Pianola, zu Hause in mein Salon, ich bin die fece Lola, mich lieb an ja doma, doch in mein Pianola, da lass ich keine ran, ich bin die fece Lola, do libri in the season, ich habe ein Pianola, zu Hause in mein Salon, und will mich schwer begleiten, da unten aus der Saal, da mau ich in die Seiten, und tret es auf Pedal, und tret es auf Pedal, und tret es auf Pedal, ja! Damen, eccola. Sì, Damen und Herren. Bravissima. Das ist Blue Radio Veneto. Und mit le canzoni da marciapiede. Al pranzo di nozze è il titolo del disco. Ci siamo ascoltati un pezzo di Marlene Dietrich di qualche tempo fa, questo Angelo Azzurro, nata a Berlino e poi diciamo naturalizzata negli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti, fuggita negli Stati Uniti. Fuggita negli Stati Uniti, ma erano anni duri in quel periodo, per cui sì. un po' per passione, un po' per forza, uno doveva fare anche quel passo. Sì, è stata una scelta di libertà, sì, poi alla fine. Sì, perché... sì. In realtà è stata lei a scegliere di abbandonare una patria per cui non condivideva più gli ideali. Sì. Certo, poi anche se era la stella lei della patria, perché esatto. Era famosissima, sì, in Germania, sì, esatto. Un'icona vera e propria. Sì. Sì. Però il fatto che lei già famosa andasse via ha dato un messaggio molto, esatto, molto importante anche in quel momento. Poi lei era una donna molto libera, vestiva da uomo, era libera proprio, era... Sì, è l'icona della libertà, in effetti. Esatto, sì, sì. E poi anche le canzoni, queste chansons del realisme, du realisme, come li chiamano i francesi, proprio danno proprio il senso a quella che è la libertà, e quindi la libertà, sì, espressa con il marciapiede che va sempre lungo, non si ferma mai, nel senso che da qui possiamo arrivare in capo al mondo sempre con marciapiedi, incontrando le persone le più... diverse, disparate, che stiamo incontrando anche in questo disco. E allora, abbiamo in scaletta un altro pezzo da ascoltare qui all'interno dei nostri studi, con Accontentarsi delle briciole, sempre con le canzoni da marciapiede e Al pranzo di nozze. Sono quella che mangia gli avanzi dai piatti già freddi lasciati sui tavoli e mangiati con scarso appetito, serviti con noia un oltraggio per quella tovaglia. Rintanata in questa cucina che a me non è dato frequentare, la sala entro in scena, il caffè brillo fino a che l'alba, quando torno nell'ombra come una che ruba. Già fatto altri, mi hai attraversato la vita col rosso, ma nemmeno lo sforzo hai fatto di levarti. Ho lasciato, mi pestassi l'anima, ti ho confuso in un principe, ho creduto una favola, il finale a colori, quello ancora l'attendo, quando calma e paziente i tuoi vizi mi arrendo. E sono gatta e poi suora, maestrina di scuola serale per alunni ma maturi. Principessa e barbona, un catino di carne addobbato di pizzi e di fiori. E ti aspetto la sera nei parcheggi deserti, sui viali con gli occhiali scuri. Come un paio di scarpe, un po' logore ma comode, se hai voglia mi tiri fuori. Chissà cosa ti fa pensare che a me stia poi bene così, senza orari ed impegni, nessun rischio di sbagli, confinata tra l'auto e il motel. Il matrimonio son fogli, ma è una fede, ma i figli, esisto solo tra letto e moquette. Sono quella che mangia gli avanzi dai piatti già freddi, lasciati sui tavoli e mangiati con scarso appetito, serviti con noia, un oltraggio per quella tovaglia. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Certo che queste non sono briciole, eh? Assolutamente le vostre, no. Le vostre canzoni, assolutamente no. Accontentarsi delle briciole, questo è il titolo della canzone che ci siamo ascoltati. Le canzoni da marciapiede sono con noi in questa puntata speciale di Blue Time Live. Al pranzo di nozze è il titolo del loro lavoro. Ma parliamo di una bella esperienza. Allora, cosa ci dite del premio Tenco, ad esempio? Adesso non ci stavo pensando, esatto. Mi è tornata l'agitazione. Dunque, allora, la cosa è una cosa abbastanza recente, nel senso che dopo la pubblicazione del disco abbiamo ovviamente fatto una certa attività di marketing, di promozione. Sì. Diciamo una parola più corretta, infatti, di promozione. E abbiamo, siamo arrivati anche alle orecchie di alcuni giornalisti in quota premio Tenco, diciamo così, e soprattutto al club Tenco stesso, quindi ai membri del comitato, diciamo così, che poi assegna i premi ai big della canzone d'autore piuttosto che alle opere prime. E abbiamo avuto il piacere di essere stati invitati dalla direzione artistica del premio ad un evento che si terrà questo giovedì 4 ottobre a Torino alla Maison Musique di Rivoli. Esatto. Quindi fra due giorni. Tra due giorni, esattamente. Si torna alla Spezia, si visita un po' Padova, si torna alla Spezia e si va a Torino. Esattamente. E parteciperemo a questa manifestazione che si chiama Tenco Ascolta. Ne fanno varie all'interno, diciamo, nell'anno, ed è un modo per il pubblico e per i giornalisti, per la critica piuttosto che per i membri del club Tenco stesso, per ascoltare e far ascoltare nuove proposte che hanno ritenuto interessanti. Questo per noi è un grande piacere, un grande onore. Non vediamo l'ora, in effetti, di essere lì giovedì. Sento che c'era un po' di emozione in questo, vuol dire che è una manifestazione a cui tenete molto. Assolutamente sì. Sì, poi sono soddisfazioni abbastanza inaspettate, nel senso che noi non abbiamo realizzato un disco per arrivare a ricevere un premio piuttosto che targhe o quant'altro. Ci interessava portare in giro il più possibile la nostra musica, portare il nostro messaggio in giro. Il fatto che questo ci faccia sfiorare anche determinate realtà ci fa molto piacere. Ma Tenco, il premio Tenco, ha sempre avuto quel compito là di promulgare la musica di autore, sì, con la A maiuscola. Assolutamente. E quello sì, è il problema. Il problema giusto, un bel problema da risolvere. Sì, musica sì, d'autore, sì. Quello il convincimento che quando il fratello di Tenco iniziò a programmare, a ideare il premio, era quello. Sì, sì, sì, assolutamente. E è continuato così fino adesso, più ma o meno. Infatti è un... Sì, poi vabbè... Ci sono stati gli alti e i bassi, chiaramente, esattamente. Di tutte le cose organizzate da tante persone, ovviamente, che durano nel tempo. Però è sicuramente, io direi, il premio più prestigioso che c'è attualmente. E che subiscono i tagli alla cultura. Quindi sì, si trovano a dover organizzare manifestazioni di livello senza fondi. Sì, senza un grande supporto. Quindi ogni anno non si sa se si riuscirà a fare interamente, insomma è sempre un po' così però in Italia. Un grande piacere esserci. Sì, sì, basta. Bene. Diciamo non c'è molto da aggiungere. È così, esattamente. È così. Poi sarebbe stata parte della compilation, sarebbe una bella cosa. Questo non lo sappiamo, non si sicuramente non siamo nei finalisti, questo però, lo si sa già perché i voti sono, chiaramente sono già stati palesati. Però può capitare. Però può capitare. Noi speriamo, intanto ci fa piacere portare la nostra musica lì e vedremo cosa. Sì, calcheremo un bellissimo palco, quindi siamo contenti di questo. Benissimo, allora prendiamo un po' di fiato tutti insieme. Valentina ha cantato per un bel po' di tempo, adesso ci ascoltiamo un pezzo del disco. Praticamente è uguale a come lo sentiamo dal vivo, ma naturalmente noi stiamo zitti e ascoltiamo lui. Sì, d'accordo? Posso sì, darne un'introduzione, lo faccio io o lo fai tu? Fallo tu. Questo brano si intitola Il ritorno di Camillo ed è stato pensato per una manifestazione che si tiene alla Spezia, che si chiama la festa della murineria, dei murati vivi, perché moltissime aree della città sono state, come sanno un po' tutti, prese dalla marina militare e tolte alla città. E quindi la città, che era una città di mare, tutti si andava al mare facendo pochi metri, si è trovata a non avere più sbocchi sul mare, quindi dover cercare le spiagge facendo molti chilometri. L'arsenale militare è stato voluto da Camillo Benso, conte di Cavour, 150 anni fa, sì. E Andrea ha pensato ad un suo ritorno alla Spezia. Chissà cosa trova. Bene, allora ce l'ascoltiamo, Il ritorno di Camillo. Live, Blue Time Live. Capisci già da che arrivi in città che qualcosa con il tempo è andata storta. Sarà la ciminiera che bofonchia fumo grigio e capannoni che ti accolgono di vetro. I capannoni e le mancine poco dietro. La strada del ricordo era sterrata, ora è nera di catrame su da ghiaia. E non diresti d'essere tornato a casa se non fosse per i monti che sono sempre fermi là e che ringrazi per la loro fissità. Ti dici che è normale, il mondo corre e da quando manchi tu sai quanta strada. E poi l'acqua vocazione di perpetuo mutamento e le persone ci si adeguano del resto. Le persone ci si abituano ben presto. Ecco allora si apre placido un sorriso, a lenire quell'accenno di amarezza. Quando giunto al punto dove ricordavi il litorale, hai trovato il freddo marmo di una piazza. Che prodezze fa gioventù, cosa inventa per farsi largo sulla via? Asciuga la palude col sudore, col mattone fa le case, fa la via un posto migliore. Finalmente schiuma il bianco e il blu dell'onda, ecco il mare come allora cartolina. Che peccato non si possa più tuffarsi, ma gli scogli e questo sole e questa brezza. E i giardini sono verdi delle palme, un palazzo dove c'era sabbia e sassi. Va così che il mondo corre, la città deve adeguarsi, donare un po' di sangue ai propri figli, barattare bagni e spiaggia coi navigli. La bilancia vuole così, chiede un mucchio di sassi per un pugno d'oro, qualche morto per un lavoro che ci sta, un porto e scatoloni gialli e blu. Giunto sulla costa che era dei pirati, nulla puoi contro un momento di sorpresa, quando lì dove speravi acqua di mare hai trovato mura e ferro e guardie in armi come in guerra. Son cent'anni, con chi sono ancora in guerra? Lo domandi ad alta voce d'un passante, già provato dall'attesa dell'ingresso. Ti risponde che da noi c'è il mare ad ore, che neanche le puttane devi chiedere permesso. Sei a casa tua, ma devi chiederlo lo stesso. Sono nato e cresciuto qui, tra la chiesa ed il mare, i capannoni vuoti, buoni a fare, da segna a posto per il ministro in fronte alla TV. Di pirati qui non ce n'è, e i pescatori comprano terra da zappare, che la guerra è perduta da un pezzo, ma non gliel'han detto, i muri stanno su. Ma l'acqua non è fatta per star ferma, e non ci sta baia forte a trattenerla. Chi si illude di poterla imbottigliare e farne merce da barato, prima o poi farà il suo tempo. Chi ha radici in mare porta in cuore il cambiamento. La credulità del nonno l'ho pagata, e a mio figlio non lo lascio il conto in rosso, con la scusa di difenderci coi posti di lavoro. Viene lecito pensare che interessi di tenersi il posto al sole e farci fessi. Cambia il vento e una barca va, prende l'onda e si porta presso sulla scia, cime rotte dalle catene asservite al dio dell'opportunità. Sono nato e cresciuto qui, e il respiro dell'onda riempie le mie vele, sono goccia che scava il sasso e riguadagna la sua libertà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Il ritorno di Camillo, tratto da Al pranzo di nozze. Loro sono le canzoni da marciapiede. E una domanda che avrei dovuto farvi: come mai la tredicesima canzone, che è proprio Il ritorno di Camillo, è un attimino, come dire, slegata dalle altre, anche nel senso di titoli? Quindi dall'1 alla 12 tutta una cascata, e poi breve spazio la 13. Forse proprio perché Camillo non era al pranzo di nozze con gli altri? Diciamo di sì, non sarebbe arrivato in tempo probabilmente. Forse è aspettato a lungo. È partito presto, poi si è perso durante il viaggio. Esatto, è stato un viaggio lungo e faticoso. Sì. Perché è un pezzo che in effetti esce dal discorso del pranzo di nozze come concetto. Questo album ha questo titolo proprio perché, come dicevamo prima, raccoglie l'umanità. Sì, un piccolo speak appunto di umanità che abbiamo immaginato convenire a questo pranzo di nozze. Le canzoni che precedono il ritorno di Camillo rientrano tutte in questo banchetto. Il ritorno di Camillo era un brano che tenevamo comunque a mettere per la tematica all'interno del CD, però si scostava decisamente dal tema del resto dell'album, e quindi l'abbiamo un pochettino staccato. In altri album le troviamo scritte come bonus track. Ecco, esattamente. Sì. Noi non abbiamo usato questo modernismo, certo. E l'abbiamo semplicemente messo. Abbiamo un finale così militaresco, come si conveniva. Sì, è una marcetta. Camillo Benso con se dica lui. Sì, sì, una marcetta. Esattamente, come si conveniva a lui. Esatto. Benissimo, sono le 22.30 in questo istante, normalmente scatta l'appuntamento con Rock Wave, ma noi continuiamo invece con Blu Time Live, salutando a distanza Alberto Prisco, impegnato in altri lidi, e comunque lo ringraziamo anche perché è il nostro gancio per avere ai nostri ospiti le canzoni da marciapiede. Quindi noi continuiamo, abbiamo ancora dei pezzi da far ascoltare, perché non continuare con Di carne e di legno? Benissimo. Ecco qua. Allora, microfoni a posto, si può partire. Paese uno sputo di porfido grigio su di un foglio di verde marcito. Annoiata si adagia sui gomiti la strada di gesso, ne urla il vestito. Il mare è un pensiero di sale portato dal vento, nei giorni che tira il maestrale. La città qui ci affaccia la testa, nei giorni di festa o carro col morto da portare. La sera il corso è parata discreta di donne che cerca marito, il vestito cucito una dote, il Cristo al collo potere esibito. In questo quadretto illustrato a colori vivaci non manca nessuno: il figlio del prete, il cornuto, la santa ed il muto, che non parla a nessuno. E succede che parli con quello che porta la statua nel giorno del santo. Bello come un attore d'Hollywood, brillantine capelli, severo lo sguardo. La fuitina tra pecore, fili di fieno, giro a valzer per un nuovo amore. Poi ritorno al paese che dorme alla casa del prete a segnare le nozze. Le nozze col riso, coi fiori alla testa e nel grembo tra tulle e pancera. Ballo d'addio alle uscite la sera. Benvenuta a grembiule dovere. Il miele si secca sul tappo del vaso e la luna la mangia nei tarli. Dalla mano alle cosce, alla mano alla faccia, è questione di vino e di giorni. Facciata a carteggio di fiori pastello, fondale e mattone sbiadito, condominio addobbato a festa, che oggi mia figlia si prende marito. È un Cristo a modo, un buon partito, gira il mondo da sopra la nave. E a mia figlia l'ho cresciuta bene, come me sarà moglie devota e fedele. L'auto da ricchi calpesta manciate di riso sopra il sagrato. Suonano trombe, fila di coccarde bianche alla sala da ballo. La sposa saluta parenti e serpenti, lo sposo non conta bicchieri, con suoceri in imbarazzo. Quando il figlio comincia il suo andirivieni dal bagno con la testimone, rossetto sbavato, ma questo è uno scherzo. Mio marito fa segno, sta zitta, perché l'uomo è di carne e non legno. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Di carne e di legno, le canzoni da marciapiede con questo Al pranzo di nozze, che era come non si vorrebbe mai arrivare al pranzo di nozze delle persone sbagliate, perché in questo caso c'è stata, mentre nel primo Il pranzo di nozze c'era un quadretto di dei normali pranzi, diciamo, in questo caso c'è il... Sì, lì c'era una panoramica, il pranzo di nozze c'era una panoramica, qua sì. C'è il dettaglio. Qua c'è il dettaglio, dettaglio amaro. E c'è anche una mancata coppia alla fine, no? Perché sembra che si era innamorati di tutt'altro, esatto. Di tutt'altri che non quella che si era portata all'altare, insomma, sì, in questo caso. E qui la scuola genovese sì, da un certo segno, deve andare da un certo segno, secondo me, qua. Cosa dici? È altamente probabile. Sì. Nel senso positivo, no? Assolutamente positivo. Scorre nelle vene. Scorre un po' la squadra genovese, sì. Dio volesse, diciamo, aggiungiamo. Che scorresse ancora di più. Certo. Visto che abbiamo nominato anche altri artisti, allora cerchiamo di capire anche quelli che sono i vostri gusti musicali, al di là di quelle che sono le canzoni che proponete. Cosa ascoltate di attuale? Se ascoltate l'attuale oppure se andate un po' indietro nel tempo perché l'attuale non vi garba? Magari 3-4 John 3, 4... De Leo? Bene, ottimo. Amanda Palmer è la passione di Andrea, sì, io sono un po' gelosa. Io amo Amanda Palmer, lo dichiaro pubblicamente, anzi se Amanda l'ascolto io... Amanda, Alice ti sta guardando, ti malissimo perché no, realmente non conosce Amanda, ma una volta che la conoscerà La conosce, musicalmente sì, parlando la conosce, quindi... Cristiano Angelini, assolutamente sì, nostro amico, abbiamo scoperto in lui prima una persona simpaticissima e divertente, subito dopo un artista veramente spesso, direi, ecco, sì, gli piacerebbe sentirsi definire spesso, sì, spero che sia l'ascolto. Un autore, ciao, nostro concittadino, peraltro Targa Tenco dell'anno scorso. Tra le altre cose è una persona ottima. Ma ascoltiamo forse musica paradossalmente nuda. Sì, ascoltiamo molte cose contemporanee. Anche sì. Ute Lemper avevi detto. Anche sì, Ute Lemper ci piace stupenda molto. Per andare ai grandi ascoltiamo in questo periodo tantissimo Piero Ciampi, per andare un pochettino all'indietro, sì, sì, grandissimo poeta che si sta riscoprendo un po' alla volta anche che Piero si sta Ciampi, riscoprendo sì. Ma probabilmente c'è tutta una nuova tra virgolette leva autorale che l'ho scoperto già da tempo, certo, ma dobbiamo me. Anche sì, ricordare il grande lavoro che ha fatto Nada per la scoperta sì, di Nada, Piero Ciampi, sì, sì, sì, assolutamente. Nada è stata importantissima, lo ha sempre portato in giro nei suoi spettacoli, in effetti, certo, è un grande merito che ha avuto. Vabbè, De André, i classici, Milva. Ecco, Milva, che era una. Sì, Milva, che stranamente, dopo un primo successo fatto in Italia, anche lei decide di scappare sì, di andare in Germania, dove sembra sia sempre molto applaudita, molto apprezzata durante... sì, sì, adesso non si sta più esibendo dal vivo, ha deciso di rinunciare alla carriera dal vivo in maniera ed molto è una elegante, scelta aggiungerei, molto molto rispettabile, anche perché è arrivata a una certa età, mi sì, sembra ne ha quasi 80 o... credo di sì, ci si avvicina all'80, ci si avvicina anni, moltissimo, sì. Per cui me la ricordo da piccolo che lei era già grande, per cui insomma sì. Poi ci piace molto sì, a me Mia Martini è stato il motivo per cui ho iniziato a cantare. Mia Martini, ecco, diciamo così, ho iniziato ad ascoltare lei e... Quale pezzo di Mia Martini, Valentina? Allora, il primo brano che ho cantato nella mia vita in generale è stato Sei bellissima di Loredana Bertè, che era la sorella, quella era la sorella, quindi diciamo le sorelle Bertè. E poi Gli uomini non cambiano, Minuetto, mi piace tantissimo Nuova gente, mi piace tanto Stelle di Mia Martini, proprio il suo brano composto da lei, mi piace un po' tutto di Mia Martini. Soprattutto mi piace la sua vena interpretativa, la sua grande capacità di trasmettere emozioni cantando, cosa che hanno secondo me pochissime persone poi in realtà, quelle veramente oneste, Piero Ciampi per l'appunto, sì, uno di quelli. Avevamo parlato anche di Mia Martini durante una trasmissione in cui era stato ospite Mimmo Cavallo, che sì, aveva regalato a Mia Martini alcune delle sue canzoni e quindi... Non senza qualche emozione avevamo ascoltato anche qualcosa, immagino, dalla sua voce, ricordando Mia, è stato magnifico. Allora, le canzoni da marciapiede, ancora un brano da disco? Benissimo, allora in questo caso si parla di mare? Si parla di mare? Sì, sì. Una storia che si svolge sul mare. Benissimo, allora Sabbia e conchiglie. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Tu raccogli le conchiglie come fossero meraviglie nella sabbia che è d'argento fatto blu, mentre sogni d'essere moglie d'un pescatore di coralli che ti vesta di attenzioni e di cristalli. Tu che odori rose rosse, che se solo lui ti amasse poserebbe la mattina al tuo portone come un filo d'aquilone tra le maglie di una rete sta il tuo cuore. Metti in fila sassi bianchi e ti illudi di mancargli nella sabbia che è d'argento fatto blu. Tu che attendi sulla soglia il tuo uomo che non torna verso altri lì di punta la sua prora. Tu che asciughi le sue voglie quando il giorno si fa notte e bruci nuda al sole di un falò. Si consuma la passione e resta cenere. Ora siedi in fondo al mare, troppo stanca di aspettare quella barca che non sai se approderà. Tu che sognavi d'essere moglie d'un pescatore di coralli, figuravi rose rosse tra i capelli. Resta un fiore sulle rocce che ha posato lui stanotte, pescatore sceso a terra a cercarte. Le due fedi tra le moglie, non c'è donna sulla soglia cui donarle. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Diciamo che quando interviene la sigla e poi la base, dopo una canzone così bella, ti risvegli improvvisamente mentre stai sognando. Una botta di adrenalina. Sì, sì, sì, che poi hai sentito proprio alla fine della canzone questo mare, come lo si sogna sempre, che dicono rilassi molto. Questa anche cosa new age. Sì, molto, molto new age, dove ascoltando il mare, il vento. Diciamolo al pubblico, sì. Acquistate il CD perché c'è il finale new age. Assolutamente. Sì. Vi rilasserete molto, Bisogna assolutamente che i nostri ascoltatori imparino ad ascoltare ancora di più questo disco, e anzi, ascoltandolo in cuffia è assolutamente meraviglioso. Bisogna essere anche, diciamo, da soli, e questo senz'altro non crea stress, anzi ve lo riduce di molto. Grazie. Ascoltandolo e soprattutto e ripetendo l'ascolto più volte, e poi vedrete anche all'interno il booklet con tutti questi disegni favolosi che, ricordiamo ancora una volta, sono stati fatti da un vostro collaboratore, Giuseppe Vitale. Ecco, che era l'immaginario di Giuseppe Vitale alla sua pagina, sì. Facebook è rintracciabile, lui fa creazioni veramente belle, anche oggetti d'arredamento. un artista straordinario da seguire assolutamente. Ed è particolarmente vitale anche nella vostra copertina, no? Certo, certo. Molto colorato. Lui ha avuto, è stato tra i primi ad avere il master del CD e quindi si è messo il CD in casa, ha cominciato ad ascoltarlo e mentre lo ascoltava creava i personaggi, quindi sono nati proprio da lui tutti i disegni che sono nel CD. Sì, nella copertina tra le altre cose c'è la sposa che viene lasciata sola da uno sposo che non sembra correre via, ma sembra essere trascinato via. Sì, è uno sposo un po' distratto. Che nemmeno il giorno del matrimonio riesce a concentrarsi. Probabilmente abbiamo dubbio che sia lo sposo di carne di legno. Ecco il motivo. Poi lo chiederemo comunque a Giuseppe. Probabilmente è quello, vabbè, allora lasciamo comunque un po' di mistero sulla copertina in maniera che anche gli ascoltatori entrando in possesso del vostro disco possono dare la loro interpretazione. Ricordiamo che comunque questa trasmissione è registrata e verrà inserita all'interno dei nostri archivi sonori, sarà possibile riascoltarla entrando nel nostro sito bluradioveneto.it e cliccando nella pagina riservata appunto alle canzoni da marciapiede, e oltre a questo scoprirete che c'è un link che vi collega a una pagina dove ci saranno delle bellissime foto garantite da Gilles, che in questa serata si è molto divertito, assolutamente sì. Fortunatamente garantite da Gilles. Fortunatamente garantite da Gilles, sì. Forse si faceva riferimento sì, a qualcuno che stava parlando insieme con te adesso. Lo, sì, lo ricordo ad Andrea, Valentina, ma anche ai nostri ascoltatori: molte foto sono scattate da Maurizio. Esattamente. Che ha un genere di zoom non tanto automatico, ma manuale. Anzi, va avanti a braccio. Un po' più all'antica. Esattamente. Quindi sono in tema con voi. Vado indietro leggermente. Giusto. Assolutamente in linea. In effetti, vabbè. Allora, noi proseguiamo con ancora dei pezzi live, ne abbiamo ben due in scaletta prima di salutarci e quindi diamo spazio anche al piatto forte del pranzo delle nozze. Ok. Ancora vino per me, che questa è cena da bere, cimitero di cicche, bottiglie, la tavola, imbarazzo di cameriere. Si leva un brindisi per qualcuno di cui non ricordo il nome, paonazze le facce, cortina di fumo, gonne e cravatte allentate. Cade una goccia di rosso rubino dritta sulla tovaglia e l'odore si spande, si fanno più forti le voci, più audaci gli incroci di mani e di sguardi. Un altro giro di vino e faccio anche il sipario del poco pudore serbato finora. Si arriva a parlare di sesso come adolescenti dopo la scuola. Se so qualcosa di te, l'auto che guidi ed il nome, quale migliore occasione per dire parole, dimenticherò. Mentre racconti di te, credo, trovo che è un buon odore, con un tempismo perfetto il commensale di fianco c'è della sedia e sorride. E mentre arriva il caffè con il conto e non riesce a star fermo questo pavimento, si è fatto stretto lo spazio sul tavolo, la certezza di essere fuori controllo. Mi sfiori le calze, non credo ti basti un biglietto col numero sotto il bicchiere. Cerchi lo scontro diretto, temo, dovrò rifiutare. Auto che accosta laddove nessuno la vedrà, scendono a scatti lenti sedili, tremano tintinnando orecchini, appanna i vetri la fame affannata del pasto aspettato di più. Serviti e gusta piene mani il piatto forte del menù. La sveglia segna le sei, sacchi in mano e spalline giù. Giallo ambra la stanza, primo accenno di alba letto matrimoniale. Via il vestito, via! Il trucco già non l'avevo più. Scivolo tra le coperte col ricordo asciugato di mezz'ora fa. Fa capolino la luce del giorno mentre idealizzo di un prossimo incontro, talmente immersa nel nuovo ricordo da non far caso alla schiena che scontro. Passato il sonno mi restano addosso il sapore, l'odore dei doni concessi. Ma mi domando se è peggio tradire o mentire a se stessi. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. In questo caso invece che Blue Time Live l'avremmo chiamato Reg Time Live, proprio perché c'era sempre questo continuo pianoforte che ci ha accompagnato in questa trasmissione, in questa lunghissima trasmissione. Non vorremmo mai finisse, perché quando uno si trova bene, vero Maurizio? È divertentissimo. Sì, sono d'accordo con te, il live è una cosa meravigliosa, e poi se è lungo è ancora meglio, secondo me. Sì, ci si entra pian piano. Esattamente. All'inizio ascoltatori... la radio dà un po' un'idea di freddezza, non si ha il pubblico davanti, certo ci siete voi. Poi hai visto benissimo, le radio vengono messe o in soffitta o in cantina, in questo caso nel garage. No, sto scherzando. Sì. No, non siamo, siamo in un posto stupendo. Un po' accogliente. Sì, assolutamente. Grazie. Bello, no, si sta bene. Rimango si sta senza bene. Parole di fronte a questo. Stiamo stando molto bene. Stiamo stando bene. Bene, dialetto spezzino questo. Ma neanche. No, neanche. No. Ok, abbiamo ascoltato anche il piattoforte, una breve descrizione di quello che è successo all'interno del piattoforte. Di quello che succede in alcune famiglie. Come diciamo a volte ci si... Mi sto infilando in un ginepraio, aiuto. Vabbè, ci si fa aiutare magari more. da un po' di vino e si sentono spesso notizie, tradimenti, e quindi si arriva poi a mandare magari a monte qualcosa di più concreto. E spesso si dice che siamo nell'epoca dell'usa e getta. E sì, il piattoforte è ancora la parte dell'usa. Esatto, è la parte sì. dell'usa. Si è trattato dell'usa con... Dell'usa. Ah, no, non delusa. No, no, in questo caso. No, lei non sembra affatto delusa. No, nessuno dei due direi che... Però vabbè, allora... È il terzo che forse potrebbe... Invitiamo ancora una volta gli ascoltatori per saperne di più, per cogliere ancora un linguaggio anche nascosto all'interno di questo disco, fatevelo proprio, quindi la canzone da marciapiede si trova in tutte le maniere, quindi sia a disposizione dei vostri concerti. A proposito, c'è qualcosa che bolle in zona Veneto? Zona Veneto in questo momento direi di no. Quindi questo è anche un appello. Sì. Ecco, facciamo un appello a tutti i gestori dei locali, delle sagre anche, perché si mangia bene, perché no, in generale anche ai privati. Invitateci, noi arriviamo volendo con la nostra roulotte edit o a piedi anche. Sì, con mezzi propri. Con mezzi propri. Avvisateli una settimana prima, perché dalla Spezia vi organizziamo tutta una roba un po' in rosso. Qui parlate proprio. Devo ancora prendere la parlata. Poi ti facciamo un corso rapido. Grazie. Non è difficile poi. Ecco. Allora, che dire, noi ci dobbiamo salutare, però diamo un altro specchietto a quello che andremo ad ascoltare, un altro pezzo delle canzoni da marciapiede che si intitola Voglio un uomo. Sì, questo è un pezzo che è sempre un nuovo pezzo, non fa parte dell'album, l'abbiamo realizzato poco dopo l'incisione. Sì, esatto. E si tratta di un una presa per i fondelli, diciamo così, di un certo mondo femminile, diciamo, è una... Sì, sbeffeggiamo un pochettino alcune caratteristiche della donna, in maniera molto bonaria lo facciamo, però secondo noi cogliamo dei particolari... Quali ci sono dei momenti in cui in casa, perché noi abbiamo la nostra sala prove in casa, proviamo naturalmente lì, quindi sala da pranzo di nozze, esatto, ecco, sala da pranzo in questo caso, sì, proprio sì. Lì e quindi fissiamo regolarmente le prove, ci mettiamo d'accordo, cioè proviamo esatto. Domani poi magari l'indomani c'è qualcosa, però insomma funziona abbastanza bene questa sala prove. Tanto siete sempre ci si lì, becca, no? In genere. Sì, sì, sì, sì, ci troviamo. E quindi è successo varie volte che magari Andrea componesse un brano e poi io gli dicessi: ma senti un po', ma questo lo devo cantare io? No, dai, non mi far dire ste cose. Quindi è arrivato ad un momento di clou, dopo l'uscita dell'album, ha pensato bene di scrivere Voglio un uomo. Ed io quando ho letto il testo ho riso, naturalmente. Sì. Ed ho pensato, beh, mi piace rappresentare questa donna. Benissimo. Mi diverte. Una cosa molto bonaria, in effetti. Assolutamente. Nella quale le donne hanno molto in cui ritrovarsi, comunque abbiamo scoperto dal vivo. Certo, ecco. Allora sì. Ascoltiamo anche questo quadretto. Allora, prima di lasciare i microfoni aperti ancora per l'ultimo brano, io e Maurizio di solito andiamo via, quindi vi lasciamo aperti i microfoni, fate quello che volete e poi chiudete la porta. Okay. L'ultimo chiudo la porta. Allora, grazie alle canzoni da Marciapiede, quindi grazie a Valentina, grazie... ad Andrea e grazie anche ad Alice che è venuta con noi, che ci ha dato anche il suo Ladies and Gentlemen, Damen und Herren e così via. Prego. Eccola là. E quindi poi diciamo che all'interno dell'archivio nostro fotografico saranno anche esposti i disegni che ha fatto. I bellissimi disegni di Alice questa sera, fantastici veramente. Real time. Allora, grazie alle canzoni di Marciapiede. Grazie mille a voi, siamo stati molto bene. Un peccato dover già finire. È un peccato. Torneremo volentieri. Certo, bene, allora sarete sempre nostri graditissimi ospiti. Allora è proprio tutto, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso Viva gli sposi con le canzoni da Marciapiede al pranzo di nozze. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Voglio un uomo generoso e col cervello di un attore, lui custode, io regina del castello. E se fosse pure bello, questa cosa non la nego, avrei anche il privilegio di guardarlo. Tenero e vicino come un buon amico, per aprirgli senza indugi la mia stanza dei segreti. Che ascolti tutto ciò che gli confido, ma di quel che non gli dico non si azzardi a domandare. Voglio un principe, un contabile, un poeta, uno zimbello, a seconda dell'umore, del risveglio. Non è poi così difficile, con un po' di comprensione, soddisfare di una donna il desiderio. Chiedi ad altre donne femmine se gli sembra perdonabile questo tuo non saper leggere il pensiero. Hai parole, mani ed occhi, dico no, ma tu mi tocchi. Di cos'altro avrai bisogno? Del Bignami? Non lo so se c'è un uomo che accontenti tutto quel che pare a me. Ma se poi non c'è, mi accontenterò di te. Voglio un cucciolo da poter coccolare tra le coltri ed un bruto che mi stracci il cuore in petto. Uno che capisca al volo se quello è il giusto momento per portarmi a passeggiare oppure a letto. Che mi lasci libertà se ne ho bisogno, che perdoni di buon grado un incidente di percorso. Sono donna, ma pur sempre essere umano, caro mio, e l'errore mi avvicina un po' più a te. Non lo so se c'è un uomo che accontenti tutto quel che pare a me. perfetto. Con uno ci vado al mare, l'altro lo porto al ristorante. Braccio caldo sotto le lenzuola e tu, che quando mi vien voglia di parlare resti. Mi accontento perché in fondo parlo, parlo e voglio, voglio, e la mia lista delle attese è lunga un giorno. Odio la tua titubanza e il passo incerto, ma ogni volta che ti lascio per la strada poi ti cerco.